Storie italiane. Il tiratore di sassi. Alcuni contenuti di questo video potrebbero non essere adatti a bambini di età inferiore ai 13 anni. C'era una volta, nella gloriosa terra del Laos, la terra di milioni di elefanti, un bambino di nome Mansei. Non aveva genitori ed era zoppo da una gamba. Ma Mansei era un bambino molto felice e ben curato dagli abitanti del villaggio. Ciao Mansei, ti ho portato verdure fresche dal mio orto. Oh, Lea? Verdure! Gli ho portato qualcosa di meglio. Una torta dolce e zuccherata, gli marciranno tutti i denti. I bambini del villaggio giocavano sempre con lui, ma in un gioco in particolare lui era il migliore. Wow! Come hai fatto a colpire quell'albero? Questo è Mansei! Può ammirare qualsiasi cosa, non importa quanto sia lontana! Bene! La verità era che Mansei trascorreva molto tempo esercitandosi a lanciare sassi su oggetti lontani. Poteva persino colpire le foglie nelle parti più alti degli alberi alti. Un giorno, seduto da solo sotto un grande albero di banyan, iniziò a lanciare sassolini alle foglie. Oh, wow! La luce del sole che attraversava la foglia creò un'immagine sul terreno. Sembra un ragazzo che balla! Ed era proprio così. Quando le foglie fluttuavano e i raggi del sole si muovevano con loro, l'immagine sul terreno si muoveva meravigliosamente. Quando i suoi amici vennero a trovarlo, rimasero incantati dallo spettacolo. Oh, cos'è questo? È bellissimo! Facciamo qualcos'altro, eh? E subito creò un elefante su una foglia e poi un elefantino. Wow, sembra un elefantino che segue la sua mamma. I bambini si stavano godendo lo spettacolo e quasi non videro il re e i suoi soldati avvicinarsi in quella direzione. Ma si voltarono quando sentirono i suoni. Oh no, il re! Presto, nascondiamoci! Forza, Mansei! I bambini si nascosero dietro i cespugli e il re e le sue truppe presto si fermarono. Ma non appena il vento soffiò e mosse le foglie, gli elefanti si presentarono vicini al re e lo sorpresero. Oh, che cos'è questo? Sembra quasi una magia. È bellissimo! Guardie, trovate la persona che ha creato quest'arte. Oh no, loro ci troveranno! Corri, corri! Aspettate, aspettatemi! Ma i bambini scapparono lasciando Mansei indietro. Anche se il re era un brav'uomo, per i bambini era comunque una persona grande e spaventosa. Ho trovato un ragazzo qui. Portiamolo dal re. E così il povero e spaventato Mansei fu portato davanti al re, tremando. Sei tu che hai creato queste immagini? Sì, Altezza. Provalo. Creane un'altra per noi. Mansei raccolse un sassolino, ma proprio in quel momento un uccellino canoro si appollaiò su un ramo. Vedendolo, Mansei ebbe un'idea. Lanciò i sassolini su una foglia spezzata e formò l'immagine del corpo dell'uccellino. Su un'altra foglia creò la testa dell'uccello. E quando le foglie si mossero, tutti guardarono con stupore. Sorprendente! Sembra che l'uccello stia cantando la canzone. Il re e i suoi uomini si divertirono e applaudirono al canto dell'uccello illuminato. Ragazzo mio, hai un talento davvero notevole. Vorrei portarti al castello con me. Potresti essermi davvero di grande aiuto. E così Mansei si sedette nella carrozza con il re e cavalcarono fino al palazzo reale. Quando entrarono, Mansei rimase stupefatto. Ora ascolta attentamente ciò che ho da dire. Presto terrò un incontro con i miei ministri, uno dei quali non smette mai di parlare. Oh? Voglio dire, l'uomo continua con il suo bla bla bla. Voglio insegnargli ad ascoltare anche gli altri. Quindi, come posso aiutare? Devi nasconderti tra le tende e sparare bucce d'arancia amara nella sua bocca. Mansi ne fu molto divertito e accettò il piano del re. Si sedette dietro una tenda, dalla parte opposta del ministro. Presto l'incontro ebbe inizio. Oh no! Non ho chiesto al re qual è il ministro. Bene, ho chiamato tutti voi per discutere dei furti nel regno. Qualcuno ha qualcosa da dire al riguardo? Bene, sire, mi stavo chiedendo. Stavo pensando che forse dovremmo semplicemente chiedere alle vittime. So che alcuni di loro hanno visto il ladro a un certo punto. È stupefacente. Allora potremmo... Ma credo che ci vorrà del tempo per trovare l'uomo. Dopotutto il regno è enorme e abbiamo gente così gentile. Eric, penso che voglia dire qualcosa. Ma abbiamo molti soldati nel regno. Potrebbe non chiedere tutto il tempo che ho paura. Quindi quello è l'uomo. Bene, è ora di fare una pausa, signor Chiacchierone. Sparò la buccia direttamente nella bocca di Eric, che fu molto sorpreso e presto impallidì. Cosa c'è che non va, Eric? Va tutto bene? Cos'è questa terribile cosa nella mia bocca? Eric, sei di fronte al re. Va tutto bene. Bene, cos'è che stavi per dire? Bene, Sua Altezza. Stavo dicendo che la gente di questo... Potrebbe esserci un ladro in mezzo alla nostra gente. Voglio dire, non potremmo mai essere completamente certi. Oh, caro, penso che la lingua di Eric era un po' bloccata questa volta. Grazie a Dio. Bene, Altezza, se mi ascolterai... Mi dispiace per questo. Volevo solo dire che... Perché sta succedendo questo? Ogni volta che apro la bocca arriva qualcosa di orribile. E così questa volta deglutì la buccia e decise di tacere per paura che qualcos'altro gli venisse sparato nella bocca. Bene, dovrei parlare io ora. Finalmente, Sua Maestà, quello che volevo dire era che c'è un circo itinerante nel nostro regno e ad ogni fermata che fa, una casa vicina viene sempre derubata. Questo è piuttosto interessante. Quindi vorresti visitare il prossimo posto in cui si fermerà? Proprio così, Maestà. Questa è un'ottima idea. Cosa ne pensi, Eric? Eric rimase piuttosto colpito dall'idea. Io... Sì, vai avanti. Beh, io sono d'accordo con ciò che ha detto. Eccellente! È davvero molto bello sentire molte diverse opinioni, non è vero? Sì, lo è. E così, ogni volta che Eric parlava troppo, Mansi gli sparava una buccia in bocca. Quindi Eric rimase in silenzio per tutto il tempo e non ebbe altra scelta che ascoltare gli altri. Non ricordo di aver mai sentito le loro opinioni prima. Parlo davvero così tanto? Dopo la fine della riunione, il re si avvicinò a Eric. Bene, Ora ti rendi conto che dare agli altri la possibilità di parlare ed esprimere le loro opinioni è una cosa importante? Ah, sì. Mi spiace per il modo in cui mi sono comportato. Farò del mio meglio per cambiare d'ora in poi. Ah, missione compiuta. Il re fu molto contento di Mansi e gli permise di rimanere nel palazzo. Era ben nutrito e curato. E visse una vita molto felice, mostrando il suo talento agli altri. E per quanto riguarda Eric, bene, rimase fedele alla sua parola e cercò di dare agli altri la possibilità di parlare, perché ascoltare le opinioni degli altri è una cosa molto importante. Dobbiamo sempre considerare e valorizzare anche i pensieri degli altri.